in primo piano. Buona giornata da Katia Caramelli. Insieme daremo uno sguardo ai principali quotidiani oggi 31 marzo in edicola. Cominciamo allora subito con La Repubblica. Stangata sulle bollette, luce più 10%, IRPEF 10 milioni non la pagano, gli imprenditori più poveri dei dipendenti. Questo è il titolo di apertura della Repubblica, che poi a centro pagina torna sulla polemica che riguarda i benefit per i presidenti della Camera. Polemica sui benefit, la Camera ci ripensa, questo è il titolo. Casini rinuncia ai privilegi, Violante fiera dell'ipocrisia. Un richiamo in prima pagina per una storia particolare, una storia raccontata da una delle mogli di Bin Laden. Pensate, la mia vita con Bin Laden, sempre in fuga con quattro figli, questo il titolo. Andiamo a leggere una parte di questo articolo. Se si ascolta la più giovane moglie di Osama Bin Laden, dopo gli attentati dell'11 settembre il terrorista è vissuto per 9 anni in clandestinità in Pakistan. Si è spostato tra 5 rifugi sicuri e ha avuto 4 figli, almeno 2 dei quali nati in un ospedale pubblico. È la testimonianza, scrive Repubblica, di Amal Ahmad Abdul Fateh, che appunto vi dicevo è una delle mogli di Bin Laden. 30 anni, Amal offre un resoconto dettagliato della vita della famiglia del terrorista durante la latitanza, prima del raid americano che nel maggio 2011 ha ucciso Bin Laden a 54 anni. Il racconto della donna è contenuto in un rapporto di polizia del 19 gennaio che, ricostruendo quel periodo frenetico, lascia oscuri però alcuni punti. Le parole della signora Fateh sono riportate da un agente di polizia e non offrono molti particolari sui cittadini pakistani che hanno aiutato il marito a sfuggire agli americani. Però esso solleva nuovi interrogativi sul modo in cui l'uomo più ricercato al mondo è riuscito a spostare la famiglia da un capo all'altro del Pakistan, apparentemente inosservato e indisturbato da quegli stessi servizi di sicurezza altrimenti infallibili, scrive ancora La Repubblica. E così poi continua l'articolo a pagina 17 all'interno del giornale. A pagina 23, picchiata e umiliata per il velo, una storia che trova spazio un po' su tutti i quotidiani oggi in edicola e che è richiamata da Repubblica anche in prima pagina. Roma, le tolgono l'hijab con la forza, qui non si porta, la tunisina, nessuno mi ha difeso. Ho sempre pensato che l'Italia fosse un paese libero, sbagliavo, ho cercato lavoro e mi hanno sbattuto la porta in faccia perché porto il velo, e per il mio velo 3 giorni fa, questo è il racconto della donna, sono stata picchiata, insultata, umiliata da un gruppo di ragazzi. Stavo solo bevendo un caffè. Nelia Azzabi è una donna tunisina di 37 anni, ricorda Repubblica. 3 giorni fa, in un bar che per una beffa si chiama Freedom, nella piazza principale di Monte Rotondo, un paese alle porte di Roma, mentre beveva un caffè è stata aggredita da un gruppo di ragazzi perché indossava l'hijab. Ero seduta con mia sorella quando un ragazzo, racconta ancora la donna, insieme ad altri 8 amici, ha iniziato a gridare: dovete tornare al vostro paese, tu sei una puttana musulmana, devi farti esplodere, ti aspetti a farti saltare in aria, kamikaze, devi ucciderti. Poi, racconta ancora la donna, mi hanno dato uno schiaffo in faccia, mi hanno tirato giù il velo e mi ha detto: questo in Italia non lo puoi portare. E poi continua ancora su Repubblica il racconto della donna, pagina 23, sempre a pagina 23 Repubblica, Marco Ansaldo intervista il ministro Andrea Riccardi. Le donne non si devono toccare, sono il motore dell'integrazione. Il ministro Andrea Riccardi condanna fermamente l'attacco e dice è la spia di un malessere più grande. Ancora una segnalazione dal quotidiano La Repubblica a pagina 27, Pompei, un super prefetto per salvare Pompei, vigilerà contro le infiltrazioni della Camorra. Non solo archeologi e neanche solo architetti, per salvare Pompei arriverà anche un prefetto. Avrà il compito di vigilare che vengano ben spesi i tanti soldi che l'Europa ha destinato per il restauro e la salvaguardia del sito e di assicurare che sui 105 milioni appena approvati dalla Commissione di Bruxelles non possa mettere le mani la camorra. Si conosce anche il suo nome, dice Repubblica, Fernando Guida, attualmente viceprefetto, responsabile dell'ufficio che al Ministero dell'Interno si occupa dello scioglimento dei consigli comunali condizionati dalla criminalità. L'annuncio verrà dato giovedì prossimo a Napoli, in un incontro al quale parteciperanno tre ministri, Lorenzo Ornaghi, Fabrizio Barca e Anna Maria Cancellieri, oltre al prefetto del capoluogo campano, Andrea Di Martino, e alla soprintendente Teresa 54, la quale però dice al momento di non sapere ancora nulla. Così, a proposito del super prefetto in arrivo a Pompei, a pagina 27 di Repubblica. Andiamo a vedere il titolo di apertura del Corriere della Sera. L'elettricità aumenterà del 9,8%, stangata tra aprile e maggio, per il gas un rincaro dell'1,8%, e poi ancora gli imprenditori dichiarano redditi inferiori ai dipendenti. In Italia il 14% dei contribuenti paga il 53% delle imposte, solo l'1% ha un reddito di oltre 100.000 euro. Gli imprenditori dichiarano in media meno dei lavoratori dipendenti. I dati emergono dalle dichiarazioni 2010, ricorda il Corriere, diffuse dal Ministero dell'Economia. Il 30% dei contribuenti si trova nella fascia che va da 15 a 26.000 euro. E poi ancora a piè pagina, mai in aula ma mi tengo l'indennità, l'onorevole Calearo, ex PD, non mi dimetto, dice, ho un bel mutuo da pagare. Adesso ci fermiamo per qualche minuto, poi ritorniamo su questa notizia, anche perché Calearo ha parlato in una nostra trasmissione, La Zanzara. In primo piano. Ci eravamo lasciati con la lettura del Corriere della Sera, da cui riprendiamo con una notizia di taglio basso che peraltro indirettamente ci coinvolge, perché viene citata una trasmissione di Radio 24 che è La Zanzara. Mai in aula ma mi tengo l'indennità, l'onorevole Calearo, ex PD, non mi dimetto, ho un bel mutuo da pagare. Quando Massimo Calearo, scrive Alessandro Trocino, fu eletto, Veltroni parlò di patto tra imprenditoria e politica, ma da allora molto è cambiato. Al programma radio La Zanzara dice che alla Camera non ci va quasi più, ma non si dimette perché deve pagare il mutuo, e rivela: ho la Porsche targata Slovacchia, così scarico le spese. E poi l'articolo continua a pagina 17 del Corriere della Sera. Un'altra segnalazione dal Corriere della Sera, pagina 21. Un seggio per la Lady, ma qui in Birmania il voto non è libero. Il Corriere della Sera ci ricorda che domani si vota in Birmania, elezioni test nell'ex dittatura militare. La Nobel Aung San Suu Kyi corre per il Parlamento. A lei no, ma ai suoi candidati, leggiamo un passaggio dell'articolo, i sassi li hanno tirati, li hanno minacciati, intimiditi, hanno sfregiato e strappato i poster e le schede piene di simboli molto simili a quello della sua Lega Nazionale per la Democrazia, magari ex compagni di lotta messisi in proprio. Aung San Suu Kyi non ha gradito, quanto sta accadendo è ben oltre il limite di ciò che è accettabile, ha scandito ieri la Nobel 1991. Però resta pur sempre nulla rispetto a quanto l'allora generalissimo Ma Aung fece nel 90, quando prima volle indire libere elezioni e poi le annullò visto il trionfo della NLD. Domani San Suu Kyi ci riprova e ha detto che va avanti, che il suo partito resterà regolarmente in corsa per il voto. E poi l'articolo va avanti appunto a pagina 21 del Corriere della Sera. Passiamo al quotidiano La Stampa. Bollette, stangata di primavera, questo è il titolo di apertura. Redditi, un italiano su due sotto i 15.000 euro. IRPEF sconosciuta per 11 milioni. E poi a centro pagina c'è una grande foto di monaci tibetani in esilio. il titolo: Tibet, i commissari di Pechino nei monasteri, scatta la linea dura del governo cinese, 20.000 uomini e semilegge marziale sull'altopiano. E a proposito del dramma che stanno vivendo i monaci tibetani, vi segnalo il bell'articolo a pagina 35 della Stampa di Enzo Bianchi. Ancora una volta, scrive Bianchi, le fiamme dell'immolazione che non riescono ad accendere la solidarietà di quanti potrebbero e dovrebbero alzare la voce in difesa degli indifesi. Diventiamo sempre più sordi e muti di fronte all'oppressione operata dal più forte, dal troppo forte contro il più debole, il troppo debole l'inerme. Eppure la disarmante testimonianza di chi usa la violenza contro se stesso per denunciare quella compiuta quotidianamente contro il proprio popolo non cessa di gridare. Con più si cerca di soffocarla e con più la brace coperta dalle ceneri lascia sprigionare l'ardore di chi sa di battersi per una causa giusta. Così Enzo Bianchi a pagina 35 della Stampa. Sempre in prima pagina sulla Stampa è richiamata una vicenda tragica, quella di un artigiano che si è tolto la vita a settembre a Mestre e oggi sulla Stampa parla la moglie. Mio marito si è ucciso schiacciato dalle tasse, questo è il titolo. Artigiano a Mestre, aveva 7.000 euro di spese al mese tra costi e tasse e ha deciso di non pagare più nessuno, non apriva neanche più la posta, ma il mutuo alla banca l'ha sempre versato. È la testimonianza della vedova di un carrozziere di Mestre che nel settembre scorso si è ucciso perché non riusciva appunto più a portare a casa lo stipendio. Andiamo a pagina 7 dove appunto c'è questo drammatico racconto. Quella mattina, racconta la donna, sono uscita per prima alle 6 del mattino. Di norma lui aspettava che le ragazze andassero a scuola, ma uscì presto, ha salutato i suoi genitori che abitano nello stesso condominio, un piano sotto il nostro appartamento. Ma non si trovò come tutte le mattine con l'amico al bar di fronte alla carrozzeria per bere il caffè. Quando si sono accorti che non era passato e che aveva rotto quell'abitudine, sono andati a chiamarlo sul lavoro. La porta era spalancata e l'hanno trovato impiccato. Valentina Scaramuzza è una mamma, un'imprenditrice, titolare di un bar a Mestre. Il 26 settembre dello scorso anno è rimasta vedova. Oggi lavora tutto il giorno, senza pause. Così il tempo passa, dice, e ne dedico poco a me stessa. Mauro De Vincenti aveva 47 anni quando il 26 settembre del 2011 ha deciso di togliersi la vita. Ha lasciato un biglietto davanti alla foto della moglie e delle sue due figlie, Jessica di 15 anni e Veronica di 13. Chiedo scusa a tutti, sono un fallito. Mauro aveva una carrozzeria a Mestre. Mio marito faceva questo lavoro fin da quando era ragazzo, ricorda Valentina. Era sempre stato dipendente, poi 3 anni fa ha deciso di mettersi in proprio. L'entusiasmo era tanto e lo ha appoggiato. Ha chiesto prestiti e devo ancora oggi ringraziare Confartigianato. Mauro ha assunto 2 dipendenti, ha creato un gioiello di carrozzeria. Poi a marzo dello scorso anno qualcosa è cambiato. Aveva 7.000 euro di spese al mese tra costi e tasse e ha deciso di non pagare più nessuno, non apriva neanche più la posta, ma lei Valentina è rimasta all'oscuro di tutto. Lui amava la vita, sorrideva, era solare, sono convinta che a tanti amici non ha fatto mai pagare nulla, diceva un periodo di alti e bassi ma ce la faccio, era una maschera, credo abbia sofferto tantissimo, erano mesi che non portava a casa lo stipendio. E poi a pagina 7 della Stampa continua questo drammatico racconto. Vi segnalo invece una vicenda molto più leggera. A pagina 19, il pescatore di Aragoste, da analfabeta a scrittore. L'americano James Harry ha imparato a leggere, pensate, a 92 anni. Leggiamo un passaggio di questo bell'articolo di Paolo Mastrolilli. Non è mai troppo tardi, scrive, avvertiva una fortunata trasmissione della RAI condotta dal maestro Alberto Manzi, che negli anni 60 insegnò a leggere e scrivere a centinaia di italiani analfabeti. Tardi quanto James a Ruda Harry, però non se lo sarebbe sognato neppure Manzi. James infatti è un pescatore di aragoste analfabeta che ha imparato a leggere e scrivere a 92 anni. Non contento, a 98 ha pubblicato un libro di memorie in a Fisherman Language che è diventato un caso negli Stati Uniti. Questa storia comincia quando non era neanche cominciata la Prima Guerra Mondiale. Allora James venne al mondo in una famiglia portoghese che viveva alle Azzorre. Come molti altri poveri emigrarono in America. Mio padre, racconta James, era violento, alcolizzato. Quando avevo 8 anni costrinse me e mio fratello a lasciare la scuola perché voleva che lavorassimo per lui. Facevamo di tutto, raccoglievamo l'immondizia, costruivamo mattoni, vendevamo il mais. La prima volta che mi pagò era la festa del 4 luglio. E poi va avanti questo spettacolare racconto di questo pescatore analfabeta che poi a 92 anni ha imparato a leggere e scrivere e a 98 ha pubblicato un libro di grande successo. Veniamo al Sole 24 Ore, titolo di apertura: rafforzato il fondo salva stati, l'Eurogruppo decide un incremento dello scudo anticrisi da 500 a 800 miliardi. Il fondo salva stati, scrive il Sole, aumenta da 500 a 800 miliardi di euro, lo ha stabilito l'Eurogruppo riunito a Copenaghen. Positiva la reazione dei mercati che rimbalzano dopo la caduta di giovedì. Piazza Affari ha chiuso con un aumento dello 0,45%, si restringe intanto a 332 punti il differenziale tra i BTP e i Bund tedeschi. Centropagina, Spagna, maxi manovra con condono fiscale, tagli del 17% alla spesa dei ministeri, approvate misure straordinarie per 27 miliardi. In prima pagina c'è anche un richiamo per un articolo scritto dall'arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola, un patto educativo per gli adulti di domani verso l'incontro mondiale delle famiglie che ci sarà a Milano, ricordiamo, tra fine maggio e inizio giugno, con la partecipazione anche del Papa. Per quanto riguarda il Sole 24 Ore vi faccio alcune segnalazioni. Innanzitutto trovate a pagina 5 la nuova mappa dei redditi IRPEF, categorie professionali, regioni, effetti della crisi, la grande radiografia dei redditi dichiarati lo scorso anno dagli italiani, dai lavoratori dipendenti ai pensionati, dagli autonomi ai contribuenti minimi, dai servizi professionali alle banche, con informazioni dettagliate per tutte le regioni da nord a sud. E poi a pagina 19 tasse sulla casa, così si pagherà l'IMU, 7 tipologie di prelievo, aliquote e tempi. E ancora i tuoi soldi con il risparmio gestito, guida alle novità con Plus 24 e con il libro I fondi di investimento. Per i fondi comuni di investimento, scrive il Sole, arriva la svolta europea, un mercato unico del risparmio nel quale gli operatori potranno muoversi più liberamente e si moltiplicherà l'offerta di prodotti. Che cosa cambia concretamente per il risparmiatore? Quali novità nella selezione dei gestori, nelle comunicazioni ai clienti, nella misurazione delle performance? A queste domande appunto risponde oggi Plus 24 in edicola con il Sole 24 Ore. E poi c'è anche il quinto volume della collana I tuoi soldi, le guide di Plus 24, sempre sull'argomento. Questo per quanto riguarda il Sole 24 Ore. Il Messaggero: stangata per luce e gas, aumento record della bolletta dell'energia, più 9,8%, metano a più 1,8%. Le famiglie da aprile spenderanno 49 euro in più l'anno, sale il divario prezzi-salari. C'è un richiamo in prima pagina per la storia che vi abbiamo raccontato prima della donna picchiata per il velo. Io insultata e picchiata per il velo, mi dicevano torna al tuo paese. Centropagina la vicenda dei benefit dei presidenti della Camera, benefit a ex presidenti Casini, rinuncio subito, polemica alla Camera, possibile intervento di Fini. Invece di taglio basso c'è una notizia singolare che vi vogliamo raccontare. Inchiesta sull'assessore regionale, truccato l'esame di giornalista. Blitz alla sede dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti a Roma. Su un mandato della Procura di Viterbo, ieri mattina la polizia ha sequestrato il verbale di esame contenente la prova scritta di Viviana Tartaglini, giornalista professionista dal marzo 2011. Indagata insieme al direttore del quotidiano viterbese L'Opinione, Paolo Gianlorenzo, per truffa, falso materiale e tentata estorsione. Il sospetto, che avrebbe trovato poi conferma nella perquisizione di ieri è che la Tartaglini fosse già in possesso giorni prima del titolo della traccia d'esame. Vi segnalo anche, per quanto riguarda il Messaggero in prima pagina, l'analisi a proposito della pena di morte in Giappone di Luigi Manconi: i diritti umani e le parole non dette, no alla pena di morte. Così Luigi Manconi sulla prima pagina, Manconi sulla prima pagina del Messaggero. E poi il Messaggero, così come un po' tutti i quotidiani oggi in edicola, parla di Fiorello che è scomparso da Twitter. Andiamo a pagina 19. Manca da sabato 3 marzo, non un saluto, neanche due righe, zero notizie. Un ultimo radioso cinguettio riguardo alla liberazione di Rossella Urru, la quale però in seguito purtroppo non è stata affatto liberata. Poi più niente. Aggiungendo scomparsa a scomparsa, Saro Fiorello si è volatilizzato così da un giorno all'altro, senza preavviso, senza alcun perché. È accaduto ieri, suscitando il cordoglio di migliaia di seguaci. Rosario Tindaro Fiorello, 52 anni, siciliano, showman, cantante, sposato, padre di una figlia, 5.000 tra post, video e rubriche, dopo 6 mesi di vita virtuale intensissima, non è più su Twitter. Spiacenti, questo utente non esiste, informa ruvidamente il social ingrato. E poi va avanti, ci sono i commenti anche di altri cantanti presenti su Twitter. Questo per quanto riguarda il Messaggero. La Gazzetta dello Sport, subito dopo la viabilità. In primo piano. Milan, 4 giorni di passione, questo è il titolo di apertura per la Gazzetta dello Sport. Oggi a Catania, ore 18, martedì con il Barcellona, Allegri: e come una sola partita bisogna vincere. Galliani: noi critichiamo i tecnici ma li teniamo. Alle 20:45 c'è Parma-Lazio. Poi centropagina, una grande fotografia di Muamba apparsa su Twitter. Il titolo è: sorride l'uomo che visse due volte. Appunto, dal dramma al tweet: grazie per il supporto. 2 settimane dopo l'infarto, il centrocampista del Bolton mette online una foto in ospedale. Così la Gazzetta dello Sport. Il quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana, L'Avvenire: così li ho visti morire di fame. Dopo il rapporto del Consiglio d'Europa sui mancati soccorsi, parla un profugo eritreo che era a bordo dell'imbarcazione nel marzo 2011. Un sopravvissuto racconta l'odissea del gommone. Trovate questo racconto drammatico di questo sopravvissuto a pagina 10 del quotidiano L'Avvenire, che al centro pagina. Poi a quest'altro titolo: stangate vere e falsi poveri, aumenti record nei prossimi 2 mesi, la luce salirà del 9,8%, il gas dell'1,8%, dichiarazioni 2010, metà degli italiani non arriva a 15.000 euro, solo l'1,3% sopra i 100.000 euro lordi. Così L'Avvenire. Il Fatto Quotidiano: evasione boom, imprenditori più poveri dei lavoratori, questo è il titolo di apertura. I capi azienda di dichiarano in media 18.000 euro, i dipendenti pubblici 19.000, i pensionati 15.000, tariffe alle stelle, luce più 9,8%, gas più 1,8%, vendite auto in Italia giù del 40%. Vi segnalo, c'è il richiamo anche in prima pagina, poi a pagina 7 l'articolo, e Mediaset disse a Fede: bocca cucita su B, intendendo appunto Berlusconi. E anche: intanto il governo salva i mega yacht, un articolo che poi trovate a pagina 2. Per non pagare le imposte ai titolari di imbarcazioni di lusso basterà issare bandiera delle isole Cayman o di un altro paradiso fiscale. Così il Fatto Quotidiano. Il Giornale: presidenti vergogna, questo è il titolo di apertura. Bertinotti e Violante non rinunciano ai privilegi di ex. Fini tace, il vizietto della sinistra moralista di tenersi il malloppo. E c'è poi l'articolo di Fabrizio Rondolini. Torino. E poi a centropagina la fotografia del logo del Real Madrid. Il Real Madrid si toglie la croce per lanciare il Real Madrid Resort a Dubai. Il logo del club ha perso la croce, ricorda il giornale. Poi c'è anche l'articolo a pagina 16. Il Giorno, luce e gas, maxi stangata, questo è il titolo di apertura. E poi c'è una grande fotografia di Antonio Ereditato, il fisico che si è dimesso dopo la vicenda dei neutrini. Il titolo è: travolto dal neutrino, lascia il fisico che metteva in discussione Einstein. Il Giorno in prima pagina ci ricorda anche un po' la svolta, colpo di scena se vogliamo, nel delitto di Melania, colpo di scena, esame del DNA su due macedoni. Finora l'unico indagato per questo delitto, ricordiamo, è il marito. Libero, presi con le mani nella marmellata, dopo la nostra denuncia Casini rinuncia ai privilegi garantiti agli ex presidenti della Camera da una norma ad hoc, Bertinotti e Violante invece tengono duro e Fini fa il pesce in barile. Bene, termina qui la rassegna stampa di oggi, un ringraziamento in regia a Pietro Lacorte, da Katia Caramelli l'augurio di una buona giornata.